stare con me. Mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò dai lontana da me. Pianse per me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò sei ormai chiusa per me. Questa storia perché io ritorno da qui. Già sapevo che sarebbe finita, certo così. Ha ha ha!